Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ma sei il furbo allora, eh? Caro papà, cara mamma, vi prego di perdonarmi per questo nuovo dispiacere che vi do. Peppino, Oreste! Ma che sono sti lui fotti andare a merda? Comunque su una cosa Vittoria si sbagliava di grosso. Una come te non la si trova ad ogni angolo della strada. Sto figliente rocchio. Vado a congio più festa. Ammazza, oh bello, complimenti. Oh, ti immagini portare qua una sbarbata e comincia a dartela alla reception. Dalla notte dei tempi, l'ultima puntata di Melog è sempre stata contraddistinta dal generoso elargire libri infami. Aggiorno per chi non sapesse di cosa io stia parlando. Il libro infame in realtà è una categoria estesa. Qualunque libro, anche un bestseller, anche un libro del Papa per assurdo, potrebbe diventare un libro infame. Quando un libro diventa libro infame? Quando le tonnellate, le mucchiate, le palate, le vagonate di libri che vengono mandate dai vari uffici stampa, le redazioni, raggiungono un livello di spessore e di ingombro fisico superiore alla capacità di tollerarlo delle anguste mura di una redazione, diventano libri infami. L'ultimo giorno, naturalmente, noi ci accorgiamo che abbiamo armadi stracolmi di libri, davanzali di finestre stracolmi di libri, scrivanie invase dai libri, in questo momento anche il tavolo del mio studio radiofonico è invaso da libri. E uno si domanda, perché in Italia si stampano tanti libri? Perché tanta carta viene sprecata? Perché tanti alberi vengono abbattuti? Perché tanto inchiostro viene consumato? Perché tanti bambini con le loro manine vengono sfruttati al lavoro nero per impacchettare questi libri e mandarli alle nostre redazioni? Beh, per dare in qualche maniera un senso comune e per sanare questa piaga, noi l'ultima puntata di Melog di ogni stagione regaliamo libri infami. L'infamità di questo libro non venga attribuita al contenuto, né all'autore, né al senso profondo che questo libro aggiunge alla storia della letteratura e della saggistica internazionale. È infame semplicemente perché ci occupa spazio. Magari un bel libro, magari abbiamo dei libri delle volte che hanno vinto premi letterari, hanno venduto centinaia di migliaia di miliardi di copie, eppure per noi sono libri infami. Questa mattina riequilibreremo l'ecosistema della nostra redazione regalando i libri infami. Di solito li regaliamo sempre per futili motivi, non vi chiediamo perizia, non facciamo quiz, non vogliamo voi ci date qualcosa in cambio. L'unico, ecco, questo è il rumore del video che su YouTube che in questo momento è stato pubblicato, che vi dà esattamente il backstage di questa trasmissione. Lo trovate sul profilo di Facebook personale individuale, quello della trasmissione. Dicevo, a questo punto non dovete fare nulla, telefonare all'800 24 0024 e darci modo di stiracchiare il tempo fino alle 11 più o meno. Ma voi direte, butti via una trasmissione? No, è una profonda, radicale e capillare analisi antropologica delle capacità di improvvisazione del nostro pubblico. Vi dimostreremo che in realtà ci sarà un senso al vostro contendere. Ad esempio, il primo ascoltatore, mentre io me la menavo per far passare tempo a aspettare qualcuno chiamasse, è l'ottimo Manfredo. Manfredo, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti voi. Allora, lei Manfredo è la case history, da come questa telefonata sarà gestita la gente capirà perché telefonare, quale sarà l'ambito premio e quale sarà la dose di imperizia che io vi chiedo per potervi guadagnare il premio che vi darei comunque. Allora Manfredo, lei perché ha chiamato? Ma principalmente per avere un libro gratis da poter leggere. Perfetto. O anzi, ancora meglio, da poter esporre per dire io ho un libro di Nicoletti, ah, con perfetto. La sua firma. Sì, ecco, perché avevo messo questo particolare importante, il libro infame personalizzato, da una firma personalizzata, e viene inviato in un bellissimo pacchetto di carta riciclata, con sopra il vostro nome, con retroscritto Radio 24, che il pacchetto in sé meriterebbe di essere esposto. Voi chiamate degli ospiti, guardate, mi è arrivato un pacchetto Radio 24. Quindi lei vuole un libro infame gratis e lo avrà, le assicuro che lo avrà, però non è così semplice averlo. Adesso le faremo sentire con una voce che voi riconoscerete ma che finora è stata silenziosa, che è quella di Giuseppe Sansonna. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti. Giuseppe il Torquemada, è l'idolo. Giuseppe il Torquemada di questa situazione. Come il Tribunale Inquisizione richiedeva prove assurde per comunque mettere a rogo, bruciare, spezzettare le streghe, Qui Sansonna vi sottoporrà delle prove, comunque il verdetto sarà sempre lo stesso, sarete condannati a beccarvi un libro infame. Quindi lei dovrà dimostrare perizia nella conoscenza dei meandri più nascosti della storia del cinema. Fai un'introduzione, Giuseppe. Beh, quello che stiamo per sentire, non voglio dire altro, è un piccolo capolavoro del Bergman italiano. Questo è il suo Posto delle fragole, tutto sfumato sulle tinte pastello della nostalgia, del ritrovarsi fra cinquantenni dopo una grande gioventù. Adesso vi facciamo sentire una clip di questo film sconosciuto e lei dovrà immediatamente, e lo saprà fare sicuramente, ricollocarlo storicamente, dare una traccia sulla trama e se possibile dare delle minime nozioni di critica sul montaggio analogico, sulle forme essenziali che hanno permesso che questo film passasse alla storia del cinema. Bellissimo. Ammazza, oh bello, complimenti. Oh, ti immagini di portare qua una sbarbata e comincia a dartela alla reception. E questo non è niente, adesso arriva la chicca, il centro di produzione televisivo. Ma va? Hai anche la TV privata? Privata? Privatissima. Allora, Manfredo, in che epoca ci troviamo innanzitutto? Dunque, mi pare che si possa dire abbastanza sicuramente, ci troviamo attorno agli anni 80. Sì, cosa sta accadendo? Sta accadendo dunque, sicuramente c'è un delirio interiore di una persona che si sente sottostimata e cerca, certo, di avere, come si può dire, l'attenzione da parte di una dolce signora, sì, millantando crediti televisivi e conoscenze di grandi attori e di grandi personaggi. Perché è passato alla storia del cinema questo film? Per un fatto molto particolare. È passata la storia del cinema perché l'interprete principale alla fine si suicida buttandosi in una vasca d'acido, citando la famosa morte nella sala Moia del pupazzetto del film quello con Roger Rabbit. Fermo un attimo, è il verdetto? È tutto completamente sbagliato, però, perché il film era Gli Inaffidabili di Jerry Calà e qui installano una telecamera nel bagno delle donne Jerry Calà e i suoi amici, appunto, ripeto, un film bergmaniano pieno di struggente nostalgia. Dai, cazzo, però comunque, ci stiamo a rompere i coglioni. Però comunque ha vinto. Allora, Manfredo, lei per la sua profonda conoscenza della storia del cinema italiano e per la sua capacità di individuare quello che è il punctum, secondo Roland Barthes, nell'immagine pregnante di questo film, merita veramente, mi stanno facendo dai sbrigati, il libro infame, favoloso, che sono 6 stagioni che cerchiamo di appiopparlo, quindi le pagine di frontespizzo sono state strappate già 6 volte, io lo dedicai 6 volte, mi torno indietro, di Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono con i lupi, il mito della donna selvaggia, che lei potrà farne l'uso che vuole. Procediamo con Gianni, buongiorno. Anche delle signore chiamino, se no se abbiamo un pubblico soltanto maschile, questo sarebbe misermo. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Perché vuole un libro infame? Perché io ho una casa piena di libri e sono un feticista dei libri. Ha degli atti, diciamo, di promiscuità indecente con i libri? Esatto. Potrebbe descrivercene qualcuno, così per aumentare le nostre capacità? Dormo con i libri, vivo con i libri, il bagno è il mio studio... in cucina c'è un libro, tipo il pane di Fantozzi. Le è mai capitato di tagliarsi con le pagine del libro? Sa che sono come rasoi affilati. Eh certo, dormendo insieme al libro mi arrotolo. Ogni tanto capita che si taglia anche nelle parti intime, vero? Vero, sì, certo. Rischiando l'evirazione. Vediamo, allora andiamo alla clip, vediamo se lei è capace di individuare perché questo film è passato alla storia del cinema. Faccia presto. Mi sembra il nome. Don Raffaele Esposito di Somma Vesuviana. Sto figliente rocchio. Ma da congio che festa. È molto facile, Michele, abbiamo voluto favorirla. Vediamo se lei innanzitutto ci dà un cenno sul periodo storico in cui è collocato questo film, sulla latitudine in cui è stato prodotto. È la Camorra a Napoli negli anni 40. Sì. Mussolini li aveva un po' chiusi ed erano rintanati nelle loro tane, ma la Camorra stava andando sotterraneamente, quindi faceva ancora pizzi e misfatti. Vediamo se andiamo oltre, mi sembra che già va bene come induzione. La protagonista principale di questo film ebbe durante, diciamo, le fasi di realizzazione sul set un episodio di cui si parlò molto all'epoca in cui si produsse il film. Cosa accadde? La protagonista era una lesbica che per l'epoca non era il massimo. Per l'epoca non era il massimo, infatti ebbe una storia terribile sui giornali e furono costretti a cambiare la protagonista, esatto. Perché si scoprì che era lesbica. Sansonna. Tutto esatto, infatti il film è L'uomo lupo contro la camorra dell'87, una sorta di grande ripresa del mondo di Boris Karloff, di Bela Lugosi, però con questo uomo lupo che si trasforma con cespi di peli di vario tipo, canino sul volto che in stop motion gli si colloca. E la questione della protagonista? Era tutto vero, sempre, tutto si è risolto bene per fortuna. No, ma adesso tu devi dire le cose vere, era vera questa storia della protagonista? No, questa è delirando completamente. Tu non hai capito il tuo ruolo. Tu fai il film è dell'87. Il rompipalle e esperto di cinema di dire esattamente stanno le cose, era tutta una cazzata. Tutto falso. Vabbè, comunque Michele, ad onta di quello che dice Sansonna, merita un favoloso libro infame, uno dei libri più rari che abbiamo tenuto veramente nascosti. Però oggi non possiamo fare a meno di darle. Le dico l'editore, Loggia De Lanzi, un raffinatissimo editore, di Maurizio Goldoni, Memorie di un fecondatore, che le sarà utilissimo nelle sue notti che passerà assieme ai libri. Procediamo con Gianni. Gianni, buongiorno. Non te ne pronto, nemmeno... buongiorno, è Michele in realtà. Michele? Sì. Lei è Michele? Prima era Gianni, sì. Ah, Gianni l'ho fatto, allora è Michele, sì. Perfetto, mi ha superato. Allora, Michele. Sì. Primo, perché vuole il libro, per farne cosa? È perché in genere sono io che scelgo il libro e adesso è capitato che il libro sceglie me, nel senso che non conosco il titolo, per cui è una sorpresa. Diciamo che esiste una corrente nella letteratura per cui si dice che sia il libro che sceglie il lettore. Il lettore entra a una sorta di deriva nella libreria, il libro lo coglie, lo seduce, lo attira e si trova nelle mani un libro di Bruno Vespa. Quindi lei adesso, visto che vuole essere scelto da un libro, sarà scelto da una clip cinematografica. Oh, che cazzo fai? Dove devi bussare, porca puttana? Ti stai per fare una sega? No, sto guardando una cosa, cazzo. Sai quando torna mamma? No. Dimmi la verità, che pensi di me? Come sono messo da fuori? Lo sai cosa penso di te? Dimmelo ancora. Penso che sei anonimo e inespressivo. Quando parli sembra che c'è uno strofinaccio in bocca e non si capisce un cazzo. Non ti lavi e ti vesti da sfigato di sinistra quando il mondo va tutto da un'altra parte. Questo penso. Nient'altro? No, a posto così. Non so se lei... compreso, ma penso, perché questa volta era veramente facile, sono sempre i film più facili degli altri, poi una persona di spessore come lei, di cultura, avrà sicuramente partecipato al dibattito che avvenne nel nostro paese all'uscita di questo film. Quale fu il dibattito? Io penso che da quello che ho potuto capire a telefono, che non si sentiva... No, non adduca scuse di disabilità auditive, si sente benissimo. Di una palestra, sì. Dove avviene un incontro tra una ragazza e un ragazzo, sì. Dove volevano stare insieme il primo possibile. Sì, però quale fu il motivo della polemica? Quello che ha detto finora è esatto. Perché ci fu una ampia polemica, si produsse anche la Santa Sede che aveva molte riserve nei confronti di questo film, che era prima per adulti con riserva, poi sconsigliato alle famiglie, poi fortemente demoniaco nel suo contenuto. Qual era la scena, la sequenza che aveva destato tutto questo scalpore? Era una scena abbastanza violenta da far vedere in pubblico. Lo so, le vedo che ha un groppo in gola, non riesce nemmeno a descriverla, è comprensibile. Sansonna, rispettiamo la pudicizia di questo... Non c'entra nulla, siamo in pieno delirio, in realtà il film è Ricordati di me, in cui Gabriele Muccino affida appunto alla bocca sinuosa della Romanov quello che realmente pensa del figlio, del fratello, è una risoluzione familiare. Ma vedi, si sta scannando col fratello. Subspecie filmica. L'ha vista la polemica fra i due Muccino? Sì, si parli con lo straccio in bocca e tutto il resto, questa violenta... insomma, citazioni romeriane, questa famiglia che appunto regola i conti in una sorta di competizione permanente. Questi, come dissi un tempo, circolano come palline impazzite di un flipper in questi appartamenti dei parioli. Insomma, questo è il mondo di Muccino che, come Joyce, ha creato un universo. Comunque, Michele, per aver colto perfettamente centrato la chiave narrativa e drammatica di questo film, merita un libro che lo aiuterà a superare l'emozione e l'angoscia nel ricordare il passo saliente, la famosa scena dei fratelli Muccino, che non possiamo nemmeno ripetere essendo in fascia protetta. Le do un libro che l'aiuterà a rilassarsi. L'editore è Medicina Vibrazionale, che senz'altro è utile, sì, sì. Arcano. È editore... citato nel film, tra l'altro. Sì. Arcano Editore, collana Medicina Vibrazionale, l'ottimo libro di Franco Cusimano e Marisa Benedetta di Gianmarino, Esperienze con i fiori di Bach. Yeah! Ok, grazie. Lo so, è troppo, ma mi sono voluto allargare. Mi sono voluto veramente allargare. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Perché vuole un libro infame? Chissà perché, io mi dispiace nella mia mania di analizzare statisticamente il mio pubblico, si vede che questa mattina le nostre ascoltatrici non sanno che farsene dei libri. Ho distribuito libri per cui le donne andrebbero in sollucro, in visibilio. Tu pensa a medicina vibrazionale, i fiori di Bach. Invece l'ho regalato a chi? A Gianni. Che peccato. Che lo segnarmo. Gianni era? Michele, adesso lo parla Francesco. Francesco, la motivazione. La motivazione è che sono incuriosito del libro che mi toccherà leggere. Mi ha incuriosito questo fatto. Mi dia qualche indicazione sulla sua Weltanschauung, così magari vediamo se riusciamo a orientare la scelta. Ma io leggo da qualsiasi genere di libro, mi appassiona dopo... No, ma è la Weltanschauung che le avevo chiesto. Sì, parla di... Di uno scrittore che pubblicava tutti i suoi pensieri su Facebook, quindi uno scrittore moderno, chiamato Stefano. Ma la sua personale Weltanschauung, per poter scegliere il libro, capito? Questo mi interessava. Poi dopo entriamo in merito. Silenzio interstellare. È stato colpito, lo so, è drastico. Mi dispiace, avrei dato volentieri, avevo un libro fantastico, anzi avevo un cofanetto molto prezioso che al mercato dell'antiquariato valeva alcune migliaia di euro. Pazienza. Andrea. Eccomi qua. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno Andrea. Buongiorno, ricordo il numero 800240024. Possono telefonare anche le ascoltatrici, non c'è nessuna preclusione di genere, anzi sarebbero benedette, perché a forza di parlare con gli uomini sto esaurendo tutti i libri, diciamo, a taglio femminile, quindi alla fine si beccheranno Manuale del bricolage e l'uso del seghetto multiplo. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto, perché voglio un libro infame? Ma ho chiamato per avere questo cofanetto che l'ascoltatore di prima non ha voluto, quindi è stato soffocato dalla profonda e drammatica e cosmica assenza di Weltanschauung. Esatto, sì. Io sto raccogliendo dei libri per... Invece lei non... Questo a lei non accade. Sto raccogliendo dei libri per riempire la mia personale valigia dentro la quale inserisco i volumi rari, ecco, per cui ho chiamato appunto per avere un libro infame proprio per concludere la mia collezione. Andiamo al film. Lasciami, porca puttana. Non devi azzardarti a toccarla. Daniele, lascia stare. Vattene prima che ci ripenso. Ma sì, ma stai pure con questo morto di fame, sai che cazzo me ne frega? Tanto le sozzette come te ne trovo ogni angolo di marciapiede. Sta puttana, ma vai a cagare, va! Fa male? Adesso non più. Comunque su una cosa Vittoria si sbagliava di grosso. Una come te non la si trova ad ogni angolo della strada. Mi sembra sin troppo semplice, Andrea. Quasi sì, mi vergogno. Sono cresciuto con questo film d'animazione per ragazzi, per cui anzi grazie di proposta. Velocemente cerchiamo di dare un inquadramento di tipo storico e sociale, soprattutto qual era il dramma che attraversava l'epoca in cui fu prodotto questo film, che è un film che andava molto controcorrente. Sì, siamo ai primissimi anni Ottanta, anche in questo caso, film d'animazione tedesco, pensato per un pubblico di ragazzi, di giovani in età preadolescenziale, affronta tematiche sociali rilevanti. Quindi... E qual era il trauma che voleva esorcizzare in questa generazione di giovani tedeschi? Ma sicuramente il problema generazionale, ecco, in questa, soprattutto in questa ultima scena che ci avete fatto ascoltare, c'è questo padre... Ma le ricorda cosa accadde quel periodo? Fu una cosa traumatica? Sì. Cambiarono il testimonial? Cambiarono del bambino kinder? Del bambino kinder, certo, sì. Cambiarono sì, il testimonial? Esatto, fu una cosa... perché si suicidò, mi sembra di sì, ricordare. Sì, è una cosa. Allora, Giuseppe Sansone, vediamo se Andrea ha colto il punto. Ma che devo precisare, sono dolente, devo precisare, perché questo, il film è troppo belli. Questa che abbiamo sentito era la calda voce del participio presente lugubre, ovvero interrante, ed era... film che rimedita sulla lezione brechtiana fondendo le estetiche di Fassbinder, i di Luca Visconti, ma aspetta, Visconti, interrante? E Visconti, Fassbinder e Lele Mora, protagonisti Costantino Vitagliano e Daniele Interrante. Di cui non sa più nulla, sono scomparsi. Purtroppo sì, si perché sa. È un paese che non appena ti volti un attimo scompari, come si diceva perde la memoria bene, è un attimo, anche le cose che più hanno segnato. Ricordi erano due miti, Interrante e Vitagliano. Erano anche molto bravi, anche qui, infatti questo film recitano fuori campo. Ci fu René Vivetti, non... fece una foto con lui tutto muscoloso e unto, lei che lo accarezzava. Completamente depilati in ogni angolo. No, lei non lo so, era vestita, loro. No, depilati come... Va bene, comunque mi sembra che lei, Andrea, per la sua... C'ero quasi, però. Sì, no, ma è andato anche oltre. L'ha detto quello che non è arrivato a dire Sansón. Un libro efficace molto, di Virgil Vogel, editore Rusconi, un grande editore, Erboristeria e Medicina Naturale dei Pelle Rossa. Le sarà molto utile per fomentare le sue visioni. Melog, la realtà condivisa. .800240024, ultima puntata della stagione di Melog. Come è da tradizione millenaria, assegniamo libri infami. Li facciamo questa mattina queste assegnazioni, dando possibilità ai nostri ascoltatori di esprimere una loro personalissima, profonda e individuale visione della vita. Vedo già però che qualcuno ci sta fortemente criticando, mi arriva un SMS: Nicoletti, sei un cialtrone, prendersi gioco dell'ignoranza della gente, vergogna. Quando mi dicono vergogna, fece una trasmissione sul vergogna, anche ieri mi dicevano vergogna a dire degli F-35 invece degli asili, l'altro giorno vergogna dire che Grillo non capisce di rete, l'altro giorno vergogna dire che c'è sempre qualcuno che dice vergogna, chissà che uno si dovrebbe sempre vergognare. Io non mi vergogno mai, sono svergognato. Sono perfettamente consapevole di essere un cialtrone. Giuseppe Sansón, che è, diciamo, la parte retta di questa trasmissione, colui che ci induce alla rettitudine, mi dai un tuo commento personale su due fattispecie. Uno, questa sorta di indignazione, semplicemente ho chiesto una cosa banalissima a un ascoltatore, la sua Veneta Schaung, rispetto alla scelta che avrei dovuto fare questo libro, e questo ascoltatore è sentito talmente soffocato da questa cosmica responsabilità che se n'è andato, ma non ha fatto nessun atto di spocchia intellettuale, che nemmeno io so esattamente di cosa si tratti. Ma in generale sul fatto che non chiamino donne. Ma le donne non vogliono libri, le donne non vogliono giocare, le donne che sono le prime grandi lettrici di questo universo, perché non chiamano e non ambiscono anche loro un libro infame? C'è un po' del timore della tua sana ferocia, come dice il... Ma io sono tanto bonino, figurati. Però, come tornando a prima, questo paese è perennemente immerso in ogni suo impulso nella farsa, però guai ad avere voglia di scherzare, di avere pensieri un po' obliqui, spiazzanti rispetto al contesto in cui ci si muove, no? C'è sempre questa seriosità di fondo mentre tutto sprofonda. Nella, no, è perché questa mattina noi stiamo compiendo un doppio sacrilegio, di questo saremo pentiti. Stiamo prendendo in giro tutta una sorta di radio sinibaldica fatta di dotte citazioni, di persone non vedono l'ora di raccontare l'ultimo libro che hanno letto, o di rompicoglionissimi esperti in cinema che si fanno dei pipponi fantastici su dei film inguardabili. Stiamo su questo sorridendo, scherzando dalle infime, limacciose mucillaggini della nostra ignoranza, però questo non ci ha permesso. Luca, buongiorno. Sì, ciao. Perché vuole un libro? Perché sta per arrivare il periodo delle ferie, quindi un bel libro da portarsi in vacanza. Certo. Quindi lo vuole un libro, lo vorrebbe plastificato, così può anche portarlo al mare e non si bagna. Esatto. Almeno la copertina, diciamo, dovrebbe essere cartonata. Ecco, sì, ho qualcosa per lei. Mi dia qualche altra indicazione, se può anche lei farmi dei vaghi cenni sulla sua Weltanschauung, così almeno riusciamo a capire meglio se è il libro adatto. Sulla Weltanschauung... Lo so, lei ha questa sorta di sorriso degli dèi che in questo momento sta incombendo su di lei, perché non è facile attingere a queste scaturigini così intime, così profonde, ma cerchi di farlo. Beh, niente, è un libro per un ragazzo di 31 anni che niente... Questa è la sua descrizione, diciamo, no? Descrizione. È il suo schema di collocazione nello spazio-tempo, a 31 anni. Ma per dare qualcosa di più, per connotarla meglio, magari sulla Weltanschauung potrebbe dirmi qualcosa di più, così capisco meglio. Ho una scelta fra due libri, sarebbe fondamentale per me capire quale sia, per poter scegliere l'uno o l'altro. Beh, mentre ci pensano, andiamo alla clip. Caro papà, cara mamma, vi prego di perdonarmi per questo nuovo dispiacere che vi do. Non è perché non vi voglio bene che vado via, ma perché ho capito di essere diventato come un peso per voi. Mamma, scusami se ti ho fatto disperare proprio quando avrei dovuto starti più vicino. So che il collegio sarebbe la migliore soluzione per me, ma ho ancora tanto bisogno di affetto. Spero che tu, papà, non sia tanto arrabbiato con me, perché io invece ti voglio tanto bene e ho una gran voglia di abbracciarti, di stringerti e di chiederti perdono. Ecco, questo per aiutarla le dirò, visto che è un po' difficile, che è uno dei pochi film che è stato sottoposto a una sorta di sequestro censorio. Per molti anni gli italiani non hanno potuto vederlo per la alta drammaticità delle scene e dei concetti che esprimeva. Può dirmi qualcosa di più? Sì, un film, penso, degli anni 70, 70-80. Sì, sì. In cui l'ambiva questo... 90 e 60, sì. In cui questo bambino affranto dei sensi di colpa... Perché aveva ucciso sua? Aveva ucciso sua madre. Certo, chiaro. Poi? E niente, appunto, a fronte ai sensi di colpa comincia a raccontare, a chiedere scusa, perché questo senso di colpa lo affligge e non riesce più a vivere con questo peso dentro. E lei si ricorda però quella famosa scena, quei 37 secondi di sequenza che furono tagliati, che si vedeva una cosa che con l'ausilio di... una sorta di succedaneo, diciamo, di un noto ingrediente della cucina, compiva questo atto, questo misfatto. Si ricorda la scena del? La scena del crimine del, no, ma di questo bambino. Del, sì, ma qual era, diciamo, l'oggetto con cui si aiutava per compiere in maniera più profonda, più radicale e viscerale questo crimine? Con cosa? Con un coltello? Col cotechino, perfetto. Giuseppe Sansonna, vediamo di... Il film in realtà era L'albero dalle foglie rosa di Armando Nannuzzi, che è un po' il Bresson italiano, infatti recupera questo mondo di Bernanotti. L'oscenità c'era tutta, comunque. Sì, se vuoi, sì, l'oscenità sta nel fatto che lì muore il solito Renatino Cestier, il caschetto biondo che muore... È un immortale, una Lander. Quante volte è morto Cestier? 100.000, lì era già piagato, credo, dalla tisi, viene travolto sul raccordo anulare anche da una macchina che gli dà il colpo di grazia, quindi il suo orsacchiotto di peluche scivola travolto. Nemmeno da... potevano donare gli organi, perché era tutto corroso. No, era tutto distrutto. E viene travolto dalle 127 il suo orsacchiotto, poi lui finisce ad agonizzare su la vera scena oscena di cui dicevo, è quella dell'orsacchiotto in mezzo all'autostrada, sì, travolto. Simbolicamente, come allegorico, il suo dantesco, il suo abbracciarsi a questo albero dalle foglie rosa, che per il titolo del film, ma che è anche il simbolo del suo affetto mancato. Ecco, la lettura adotta di Sansonna mi porta a scegliere fra i due libri che avevo in mano. Li posso dire entrambi. L'uno che l'avevo preso in mano era La guerra di Troia. Sonzogno editore, però preferisco dare al nostro ascoltatore questo libro, che è senz'altro meglio perché è una copertina bella robusta che resiste alle acque salmastre, e quindi potrebbe andare bene. Federico Cellina, Istruzioni dall'aldilà. Grazie. Prego. È un libro porta un po' sfiga perché è tutto nero, c'è cioè una foto di una sorta di essere ectoplasmatico, però lo porta al mare, magari l'aiuta per attaccare il discorso. Andiamo avanti. Oh, Barbara, che succede? Barbara, buongiorno. Ho un'ascoltatrice femminile, finalmente. Ma come mai non chiamate voi donne questa mattina? Ma lo deve spiegare. Io l'ascolto sempre, sono molto... Ma perché lei è l'unica? Rara, come mai? Non lo so, però io l'ascolto sempre. Ma ci sono, diciamo, dei sensi femminili turbati questa mattina nel partecipare al libro infame? No, per me no. Poi non lo so se il mio genere condivida questo, però per me no. Forse dipende dalla Weltanschauung. La Weltanschauung è un termine un po' complicato per tanta gente. Sì, comunque, è anche intraducibile, diciamo. Anche un po' intraducibile, sì. Sì, un concetto un po'... Però la sua potrebbe almeno farcela intravedere. Certo, io cerco di... mi sforzo almeno, condivido una filosofia buddista e cerco di vivere coerentemente con questa. Apparentemente mi ha risposto, quindi il suo universo buddista. Quindi, e il libro perché lo vuole in questa sorta di visione del mondo buddista? Perché sono un'accanita lettrice, sono molto curiosa e mi piace molto leggere. Vabbè, le sottoponiamo la clip. Questo è un furto. Come vi permettete? Io come mi permetto? Tutte le questioni che toccano la povera gente... sono cose che riguardano solamente a me, personalmente. Ma voi venite ad insultarmi perfino in casa mia! Perfino! Oreste! Ma chi sono sti rufutienti e merda? Questo film venne definito da un critico, lo dico per aiutarla, sì, il più grande ringraziamento al creato per esistere. Perché? Ah, io improvviso perché non ho capito bene. No, lei improvvisa, lei dire quello che sa, non può improvvisare. Allora, penso che sia un film un po' datato, nel senso che sarà degli anni del realismo, insomma, del neorealismo. Quindi? Quindi mi azzardo a dire... Sulla scia di Ladri di biciclette, sì, una cosa del genere. Quindi anno? Che era subito dopo la guerra. Anni 40. Anni 40, sì, fine anni 40. Sì, sì, subito dopo la guerra. Infatti. Sì, l'immediato dopoguerra. Quindi una situazione sociale parecchio complicata, con molte sacche di povertà, e in cui c'era anche una guerra dei poveri, in cui per la sopravvivenza si tendeva a prevaricare magari anche... E qual era la pratica che veniva suggerita a queste persone per uscire dalla grande ruota del divenire e quindi trovare la via di realizazione? Dovrebbe saperlo, l'ho messa in... Veramente, un piatto d'argento. Un piatto d'argento, io lo porto. Lo so. E forse la fede? La fede no, aspetta, è limitato. È un termine tecnico che deve dire. È una pratica, una formula... Già lei dovrebbe conoscerla. La respirazione Soham, che è la respirazione rilassante, può essere anche fatta ascoltando il suono del nostro respiro. È il suono So che si esegue pensando all'energia, e l'esalazione Ham, pensando di lasciare andare oltre l'aria anche le tensioni fisiche e morali. Beh, glielo diamo lo stesso il libro. Sì, sì. Allora, guardi. Siccome tu di... Aspetta, Sansonna, di cosa si trattava? Il film in realtà è Il Mamma Santissima del 79, con un grandissimo Mario Merola, meraviglioso, sempre con i suoi toni sfumati, con questo gigantesco rotolone di denaro, di banconote, con cui gira da guappo nel quartiere, recuperando la lezione meravigliosa di Scorsese, di Ferrara, di tutto questo grandissimo cinema noir, sempre sui toni leggeri e delicati e molto sapienti. Comunque, io voglio compensare Barbara del fatto di essere prima donna a telefonare, vedo adesso comincia a esserci un codazzo di vestali impressionante, quindi ha aperto, ha fatto cadere il pregiudizio, ha rotto il velo di maglie, quindi ci troviamo nel mondo della realtà e non più dell'illusione. Un libro che le sarà molto utile, così potrà anche ripassarsi quello che prima le citavo. Edizioni Amrita, collana Un soffio di luce, L'uso cosciente delle energie, di Rinaldo Lampis. Le sarà utilissimo. La ringrazio. Melog, la realtà condivisa. Peccato avere poco tempo, ancora tantissimi quei libri, non so cosa se ne faranno, e lasceremo per i colleghi che occuperanno questo studio per l'estate. Mi scrive un ascoltatore, mi dice: Nicoletti, secondo me la verità è che sei tanto geniale quanto pesante. Le donne spesso vogliono ridere, con te è davvero difficile ridere. Magari oggi sono tutte allegre e non hanno voglia di interagire con te, che parli spesso di morte. Vabbè, può essere che questa sia una ragione. So di essere pesantissimo e me ne dolgo. Una delle mie più grandi afflizioni è quando una donna mi guarda e mi dice: quanto sei pesante. Devo subito alzarmi e spostarmi. Magda, buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletti, sono contenta di sentire. È una battuta, normalmente non succede dal 20 avanti Cristo. Sennò... sì, veramente. No, lei non lo può sapere, lo posso dire io. Allora Magda, perché vuole il libro? Per portarlo in montagna. In montagna? In montagna. Per aiutarla nelle ripide salite? Piove. Per aiutarmi quando piove. Se lo mette in testa, allora vuole anche lei con la copertina impermeabilizzata. Magari. Lo so, volete. Ce n'ho ancora alcuni cellofanati che non abbiamo nemmeno aperto. Le darò uno di questi. Ma passiamo alla clip. Ah, ma tu sei una donna allora. No! Dove scappi? Vuoi uscire? Vuoi scappare? No. Vieni fuori. Dai, lasciami! Calmati! Lasciami, levami le mani! Rilassati! Chiedola! Vai! Ma sei furba allora, Vuoi scappare, Calci bassi mi dai! Allora Magda, questo diciamo è un film sull'educazione sentimentale, lei lo sa bene, però vada avanti, seguiti. Allora, io penso che la scena si svolga in un aeroporto, dove è atterrata un'astronave. Sì. E questo terrestre sta rapendo questa signora. E com'era fatto l'extraterrestre? C'è una caratteristica che passò la storia del cinema. Un trucco di Rambaldi. Simile a noi. Sì, però lo chiamavano Elephant Man, perché? Però con delle caratteristiche particolari. La sta suggerendo dal, qualcuno, cintura, dalla cintura cosa aveva? Dalla cintura in giù aveva? Assomiglia a un cavallo. Elefante. No, elefante no, a un cavallo. Era un ippocampo, era praticamente. Comunque ci è andata vicino. Giuseppe, puoi integrare la già adotta lettura? Sì, in realtà siamo sempre nel mondo animale, perché qui c'è il manzo bovino Alberto Tomba, che citerà poi una serie di maschi tipo Bobovieri, molto in voga in Italia. E qui cita Eleonora Duse, perché durante il film dissemina dei pizzini su cui legge pezzi del copione che non ricorda, con questa voce. Il titolo qual era del film? Alex l'Ariete, meraviglioso tentativo di consacrarlo come star. L'Ariete. Assomiglia molto alla visione della signora. Ci siamo andati, sì, sì, ma ha messo gli occhiali da lontano, invece quelli da vicino, e non aveva visto bene, aveva confuso per un cavallo, era una rete. Bene, Magda, lei per la sua perfetta visione e lettura profonda del film vince un libro che in montagna le sarà utilissimo, di Margaret Mulhef, manuale di floriterapia, i 38 fiori di Bach e 24 fiori californiani. Va bene. Ebbene, sarà utilissimo. Buone vacanze. Grazie anche a lei. Che la sabbia le sia lieve. Silvia, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Che piacere sentirla. Avanti, perché vuole il libro? Per il piacere di avere il suo autografo, sono sincera. Potrei apporglielo sulle carni se vuole. C'è bisogno di avere no, un libro. No, è un'alternativa, una buona idea. Quindi, cosa ne fa però di questo libro? Lo porto in vacanza anch'io. Tutti andate tutti in vacanza? Ma dov'è la crisi? Beati voi. Ma veramente? E dove va in vacanza? Sul lago di Garda. Sul lago di Garda, benissimo. Sul lago di Garda, lei guarderà il lago di Garda, sognerà, si languidirà e ascolti la clip, così vediamo un po' se ci raggiunge motivi per darle questo libro. Ditemi, che devo fare? Berardi, a tempo debito. Per ora cerca di ficcare bene in testa i tuoi compagni, che se non ci danno una mano perdono anche loro insieme a noi. Ma lo sai o no che a sinistra del Partito Comunista si sta solo col fucile in spalla? E allora datemelo questo bel indimitra! L'ho aiutata, visto l'atmosfera romantica che lei mi ha allucinato le sue vacanze. Questa è una storia d'amore. Cosa accade? Beh, è un film drammatico, altamente drammatico. Sì. In cui c'è una famiglia particolarmente disgraziata. Sì, cioè, beh. Muoiono tutti, sì. Uno dietro l'altro. E... ma cos'è? Qual è diciamo, il rimorso che questa famiglia si porta da generazione in generazione per una scelta di un loro membro? Un terribile segreto. Mi vergogno quasi a parlarne. Sì, no, so che sono quelle cose che una signora non dice, esatto, così apertamente. Però ci siamo capiti quale sia il segreto. Esatto. Bene, allora guardi, le do un libro che le sarà utilissimo. Diciamo sarà un libro da tenere sempre sul comodino. Sarà una sorta di guida sentimentale. Sarà una sorta di apriscatole esistenziale. Sarà una sorta di vademecum per la felicità delle sue vacanze. La guerra di Troia, romanzo, Sonzogno editore. È un libro fantastico, molto bello. È un po' usato perché ce l'avevamo dato 3 volte e ci è tornato indietro. Grazie Silvia, la sabbia le sia lieve. Davide, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ah no, aspetta, non ferma, Sazzona, che era il film? Non lo dico. Non mi fai dire niente, scusa. No, dai, no, il film è un grandissimo esempio di cinema civile, era Guido che sfidò le Brigate Rosse, dove c'è Massimo Ghini truccato come Krusty il Clown con una parrucca finta che ne simula la calvizie opaca e che interpreta un genovese proprio improvvisato là per là, grande, grande film toccante. La famiglia non c'entrava nulla? Non credo. Oh, vabbè, però andava bene lo stesso. David, l'ultimo, c'ho un minuto, svelto, perché vuole il libro? Per regalarlo a mia moglie, perché non è mai contenta dei libri. Per le mogli non sono mai contente. Clip. Fermo, basta. Che di film stiamo parlando? Di che film stiamo parlando? Svelto. È chiarissimo, è facilissimo. È facile. Lui camminava su una barca e si è perso a Trastevere. Sansone. In realtà era Civico Zero di Citto Vaselli, dove c'è Ornella Muti che fa la badante rumena con depressione col Botox. Benissimo, lei ha vinto un libro fantastico, stupendo, meraviglioso, di Francesca Bellino, prefazione Luis Bacalov, introduzione di Ivan Costa, Il prefisso di Dio, Storie e labirinti di Buenos Aires. È un libro che andava bene qualche anno fa, però va bene anche adesso. Grazie, lo so, è confuso. Beh, abbiamo chiuso? Sì. Chiudiamo, salutiamo, saluta Sansone. Salute a tutti, spero vi siano piaciuti queste perle cinematografiche. Ci vediamo molto presto, per quelli che vanno al mare, che la sabbia vi sia lieve.